Conosco 10 trequartisti, ma manco un terzino. Troie, succhiano il cazzo per un ventino. Ho visto più neve del Cremlino, non sono un bel tipo. Alle 6 del mattino con gli occhi di chi incastino. Non ho grammi in palla, sono in casa di Alberto. Mio fratello incinta, non è in sala da parto. Sono sopra una Bentley, sembro la poeta. Dentro la carta stagnola non ci sta il parmigiano. Bottiglie di plastica coi tappi di stagnolo. Ho fatto rap nelle crack house prima che fosse una moda. Un vero clocker per la droga diventa un acrobata. Ragazzine squagliate collassano come mia Wallace. Faccio sempre avanti e indietro, da casa giù al bar cinese. Il proprietario non parla, non sente né vede bene. Non ho problemi di soldi, ho problemi a tenerli in tasca. Ho solo scopato a scuola, non ho mai imparato un cazzo. Hai toccato il fondo ma è solo l'inizio. Mille cristiani c'hanno quel vizio. Non voglio finire a zero sul precipizio. Qui non arriva Dio ma grazie a Dio conosco un tizio. Col servizio un commercio redditizio. Lo taglia Mauro, lo imbusta Maurizio. Che la pasta ciccio la vende a Fabrizio. E quell'infame canta tutti se arriva il giudizio. La scopo solo in bocca, non ho il preservativo. Sono nato prevenuto, appena preso un digestivo. Poi si pippano l'amianto pure ste teste di minchia. E 5 su 10 sono pure madri di famiglia. Alcol come un irlandese, cotolette come un milanese. Per tre carte e mezzo partono le stese. Ho un amico che pippa il guadagno e pure le spese. Ho un contatto nel barese, ho preso cose che non sono scese. Gesù Cristo è appeso sopra la mia collana. Mangio un pezzo di pane, bevo 5 gin tonic. Te la portiamo in casa come un pezzo di pizza. Ho l'arcobaleno in tasca, una a destra e una a sinistra. Cocaina ti do un superman punch. Tracheratti bandage, profumo di orsavage. Danno i pallini in T-Max. Vedo triplo, due intramuscolo di contra. Ma il Steel Nox mi fa una coccola mentre ficco una tossica. Hai toccato il fondo ma è solo l'inizio. Mille cristiani c'hanno quel vizio. Non voglio finire a zero sul precipizio. Qui non arriva Dio ma grazie a Dio conosco un tizio. Col servizio un commercio redditizio. Lo taglia Mauro, lo imbusta Maurizio. Che la pasta ciccio la vende a Fabrizio. E quelli che fame canta tutti se arriva il giudizio. It's your boy, narc noise, you're ready no. Whatever man, gang bang, apro lo show. Sto gangsta rap vive in me, sono in overload. Con questa merda my blood, vai in overdose. In questo gioco best out, chiamami the god. Non fotti, fai io le tue chains, faccio lingotti. Deadly Venom, crotalo, liquido Toradol. Suono Doc, Blister Doc, nuovo Bono Box. Shot di vodka, più birre sopra painkillers. Strappano il sorriso dalle tue pupille. Giocano bambini con palline come biglie al mare. Vorrei vedere il mio cico di biglie al mare. Nuovi ferri sui polsi, piazza affari wall. Servizio servito sull'argenteria. Vecchi mostri, nuovi stronzi, una tenenza in due sorsi. Svuotano tutta casa in batteria.